ucciderò una domenica di luglio. Che non mi bastano più i raggi del sole. Il mondo è un gruppo di persone sole. Nessuno vive come vuole. Non dovevo nascere, ne ho le brave. Vivo perché mi amo ancora, quindi resto qua. Però non c'è nessuno che lo sa. Chiamo gli amici e gli chiedo se c'hanno il Lexotan. Sul Lego ho messo dei cerotti. Torno con gli occhi sempre rotti. Certe notti ballo col fantasma della mia pazzia. Mi dice che non va via, rimane qua. Stiamo insieme quando vuoi, finché non ci mangiano gli avvoltoi. Stiamo insieme quando vuoi, tutto il mondo cambia tranne noi. Che stare insieme è meglio di essere divisi. Stare insieme è meglio di essere divisi. Tra le lacrime e i sorrisi. Tra le lacrime e i sorrisi. Senti un risposto, la sete terrestre. Non lascio il posto a quelle bestie. Radono le foreste come le teste. Poi ci organizzano belle feste. 2015, gli uni contro gli altri. Niente gli interessa più di controllarti. Io me ne sono accorto troppo tardi, quando mi hanno tolto i lacci alle Dr. Martens. Vivo riconveniente di essere nati, delegati a rinunciare al potere. I capi ti vendono cose che potresti avere gratis. Sono meglio se le paghi. Fanculo. Io li voglio sul lastrico. Un esplosivo al plastico. Il giorno del loro onomastico. Mi mando a fanculo da camera mia. Questa è la mia terapia ed è fantastico. Stiamo insieme quando vuoi, finché non ci mangiano gli avvoltoi. Stiamo insieme quando vuoi, tutto il mondo cambia tranne noi. Che stare insieme è meglio di essere divisi. Stare insieme è meglio di essere divisi. Tra le lacrime e i sorrisi. Tra le lacrime e i sorrisi. See.